benvenuti ad un nuovo appuntamento con Indie Radio, il programma di informazione indipendente curato dal collettivo di gestione del sito Calabria Indie Media. Continuate dunque a seguire il programma, continuate soprattutto a ascoltare le frequenze di Transizione di Fase, la unica web radio indipendente che ospita la trasmissione Indie Radio. Siamo qui a Paola e alla stazione di Paola per questa iniziativa del Movimento Cosentino che sta presidiando la stazione di Paola in solidarietà con quella che è la lotta dei NoTav. Infatti in tutta Italia oggi, rispondendo all'appello del comitato NoTav, tutte le realtà di movimento si sono adoperate per effettuare dei blocchi e dei momenti di significativa solidarietà per ribadire la propria vicinanza rispetto alla lotta dei NoTav. Siamo comunque qui alla stazione di Paola, dove è stata bloccata per circa 20 minuti un treno che era diretto a Roma. In questo momento è in azione un momento di spicheraggio per sensibilizzare le molte persone presenti in una delle più importanti stazioni di tutta la Calabria, cioè la stazione di Paola. Ma ora cerchiamo di ascoltare qualche altra voce che ci può raccontare quello che sta succedendo in questo momento. Ricordiamo, 1 marzo a Paola. Sono le ore 18 e un minuto, per l'esattezza siamo sui binari della stazione di Paola e c'è in arrivo un treno diretto a Reggio proveniente da Roma. È proprio nell'ora indicata dal movimento NoTav, anche il movimento cosentino della provincia cosentina si è operato per manifestare la propria solidarietà rispetto a tutto il movimento e quindi siamo in attesa di questo treno per ricordare, come tutto il movimento italiano, che questa decisione imposta dall'alto, cioè questa decisione di costruire un'ennesima struttura inutile, quella della TAV. Come dicevamo, siamo qui alla stazione di Paola, dove il movimento cosentino provinciale, comunque lo sottolineiamo, si è dato appuntamento per rispondere alla chiamata del popolo NoTav. Insomma, come sta andando questa giornata? Sta andando, ancora prosegue, sono le 5:30, siamo sui binari. Purtroppo ci vuole dire che abbiamo dovuto anticipare il blocco dei treni perché in Calabria dopo le 17 in pratica non partono treni, tra virgolette, importanti, nel senso poi dopodiché ci sono soltanto regionali. Quindi abbiamo anticipato la solidarietà, quindi che sia speriamo che sia di buon auspicio per tutti i posti d'Italia e che appunto la solidarietà nasca in tutti i luoghi possibili, quindi NoTav ovunque. Quindi mentre è nel nord Italia, come si diceva, si creano queste mega strutture ferroviarie, in Calabria sempre di più vengono tagliati i treni, sempre di più diventa impossibile utilizzare questa forma di locomozione perché Trenitalia ha deciso di tagliare, di licenziare fra l'altro e di rendere praticamente impossibile o poco facile il trasporto per i calabresi con mezzi del genere, cioè con i treni, mentre al nord è giusto creare una TAV. Quindi mentre noi impieghiamo da Cosenza a Milano magari 14 ore di treno, pagando anche tanti soldini, invece è possibile andare da Torino a Lione in 2 ore e ci devono spiegare se questa è democrazia. Attenzione, allontanarsi dalla linea giallo E il movimento cosentino si è dato appuntamento qui a Paola e dopo aver bloccato un treno proveniente da Roma, diretto a Roma, adesso in questo momento alle ore 18.05, come potete sentire forse da questa graffiante voce della stazione di Paola, il movimento cosentino, in solidarietà al movimento Notav, in solidarietà a Luca, ha deciso di manifestare insieme a tutto il movimento italiano che in queste ore, rispondendo all'appello del movimento Notav, si trova in varie stazioni, in varie piazze, in varie strade, per dire basta alla costruzione di questo di questa struttura, per la TAV, e per dimostrare la solidarietà di chi per questa lotta ha rischiato la vita. Attendiamo dunque l'arrivo del treno diretto a Reggio Calabria, come dicevamo, proveniente da Roma. La nave di Susa alla Calabria, viva l'Italia, attraversata da uno straordinario movimento di democrazia che parte da una piccola vallata, che dà lezioni di dignità e democrazia, un'opera inutile che devasta un territorio, l'intera memoria di un popolo, un'opera che serve solo per la mafia, per gli interessi degli speculatori, dei banchieri. E poi quella vallata, quella popolazione, lo straordinario esempio di democrazia che stanno dando represso da questo Stato che tutela solo gli interessi delle multinazionali, dei banchieri, degli speculatori, e mentre anche qui in Calabria tagliano sugli ospedali, tagliano sulla scuola, tagliano sulle università, si trovano i soldi per opere costose e inutili. La Val di Susa, la TAV come il ponte, sprecano i soldi in opere che non servono a nulla, farebbe risparmiare 45 minuti quest'opera, e in cambio però devasta una valle bellissima, il luogo della memoria e della storia di un popolo, e quel popolo dice no, e allora lo Stato italiano, i banchieri, le multinazionali si preparassero, perché oggi, come tutti gli altri giorni, da qui a fino a quando lo ritireranno questo progetto sciagurato, come il ponte, il popolo che difende i beni comuni, la democrazia vera, reale in Italia non ci fermerà. La solidarietà alla lotta del popolo della Val di Susa, ma la solidarietà è forza anche per Luca, un eroe della democrazia che è stato spinto simbolicamente giù da quel pilone, perché lui difendeva la democrazia, perché quel popolo difende la democrazia, il diritto sacrosanto di decidere del proprio territorio. No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! Sui ospedali, sulle scuole, ma i soldi per garantire le opere inutili che servono solo alla mafia, alle multinazionali, ai banchieri, li trovano sempre, anche a costo di reprimere un'intera popolazione che sta dicendo che questa opera non la vuole, un'idea folle di sviluppo. E siamo qui sui binari della frazione di Paola, con il treno proveniente da Reggio, da Roma, scusate, che viene bloccato simbolicamente. La linea ferroviaria della Calabria che è stata soppressa, 22 treni sono stati soppressi, non possono partire più i treni di notte, 800 operai sono stati licenziati, questa è la situazione delle ferrovie italiane, mentre si buttano miliardi, l'equivalente di 2-3 finanziarie sulla Notav, che non serve a niente, per far guadagnare soltanto gli appalti della mafia, gli appalti che già sono stati presi dalla mafia e dall'andrangheta calabrese, e questa la Notav non ha nessun altro valore, non ha nessun altro significato in un'Italia come questa di crisi, dove gli operai sono licenziati, dove gli ospedali stanno chiudendo, dove le strade non ci sono più, specialmente in Calabria, dove c'è un dissesto idrogeologico e dicono che non ci sono soldi. Sono queste le opere che noi vogliamo e che invece appunto vengono date alle solite ditte, ai soliti appaltatori. La Notav è tutto questo, soldi buttati, soldi che non servono a niente, su una linea che non serve a niente. in questo momento in tutta Italia tutto il movimento sta bloccando le linee ferroviarie, le stazioni sono state occupate in tutta Italia, a dimostrazione che questo movimento è molto forte e vivo e che non ha paura di niente e di nessuno. Questi sono gli interventi che potete ascoltare dalla stazione di Paola, dai binari della stazione di Paola, dove, come dicevamo, in solidarietà del movimento NoTav e il movimento cosentino manifesta il proprio dissenso rispetto a questa costruzione di una struttura inutile e dannosa, e oltre a tutto ciò che ha provocato anche dei morti. Per esempio ricordiamo una signora alcuni mesi fa è stata travolta dai mezzi delle forze dell'ordine in Val di Susa. Ricordiamo ancora la questione, quello che è successo al militante Luca, che è caduto da un traliccio perché è inseguito dalle forze dell'ordine. Tuttavia il presidio qui alla stazione di Paola, sono le 18.14, continua. Sono state... E avete ascoltato i cori che inneggiano alla NoTav, ma oltre a tutto ciò, come avete potuto sentire negli interventi precedenti, non è soltanto una questione che riguarda la Val di Susa ovviamente, ma è una questione, la presenza qui dei manifestanti, che riguarda anche il territorio locale. Infatti mentre in Calabria tagliano orari, tagliano treni, tagliano tutto ciò che è possibile tagliare, invece si vanno a spendere un sacco di soldi proprio per una struttura, la TAV, che nessuno in quel territorio vuole, una struttura che comunque costerà a tutti gli italiani, ai figli, a chi ancora deve venire, costerà veramente un sacco di soldi, tante tasse in più per una struttura inutile, dannosa, che nessuno vuole. Quindi siamo qui, come dicevamo, alla stazione di Paola, sono le ore 18.14 e ora si intonano dei canti che richiamano alla Val Susa che non ha paura di dissenso, un dissenso che comunque non riguarda certamente gli interessi particolari di un singolo gruppo, figuriamoci una singola persona, ma riguarda sicuramente un'intera nazione, e soprattutto si fa di questa una questione di democrazia. Com'è possibile infatti che un popolo debba subire dall'alto delle scelte senza potersi ribellare, e ribellandosi, manifestando cioè il proprio dissenso, ovvero manifestando la propria idea, rischia di essere inseguita, di essere presa con dei lacrimogeni, colpita da lacrimogeni che, come abbiamo visto nella giornata di ieri 29 febbraio, hanno colpito addirittura dei bar, dei locali pubblici, e quindi, come abbiamo visto, le forze dell'ordine non si fermano davvero innanzi a nulla. Siamo in uno stato di guerra e quindi adesso chiudiamo per il momento, a breve altri aggiornamenti. Siamo tutti, ripetita la cosa, siamo tutti, siamo tutti. C'è ancora qualcuno in Italia che pensa di riprendere la democrazia dal basso. Questo governo tecnico non è differente dal governo Berlusconi, così come è stato differente dal governo Prodi. Sono tasse, soltanto imposizioni dall'alto. Soltanto imposizioni dall'alto. In valle per anni e anni hanno detto di no a quella che è un'opera dannosa, è un'opera inutile, un'opera costosa, serve soltanto alle speculazioni finanziarie, a far far soldi alle imprese indranghiste, alle imprese che sono già colluse, alle imprese che sono già e sono incartamenti giudiziari sotto inchiesta. Ieri sera hanno incendiato delle automobili, dicendo che erano gli stessi NoTav a incendiarsi l'automobile. Viviamo in un regime dove ormai la stampa è solo e semplicemente resistenza. La resistenza la stanno facendo in valle, mettendosi avanti con i propri corpi, col proprio cuore, giocandosi un pezzo di futuro. E il futuro della valle è il futuro che ci appartiene a tutti. E quindi abbiamo ascoltato ancora altri interventi. E qui alcuni passeggeri sono anche scesi in solidarietà della manifestazione NoTav, lo diciamo. E qui la signora mi fa cenno di sì, e noi siamo molto contenti di tutto ciò, tutto il movimento italiano che lotta per l'autodeterminazione del proprio territorio e quindi che compie una lotta puramente democratica, è veramente contenta di queste azioni di solidarietà, che come vedete non sono semplicemente azioni di qualche militante o militonto, come vogliamo dirla, ma si tratta di un movimento popolare che si estende fondamentalmente in tutta Italia. Partiamo insieme e si va. Hanno affrontato ieri sera lacrimogeni che a detta degli stessi giornalisti di regime, lacrimogeni che si vedevano a un chilometro di distanza, si sentivano. Sono i famosi lacrimogeni CS, vietati dalle convenzioni di Ginevra sulla guerra. Gli stessi poliziotti sono stati ripresi mentre manganellavano e distruggevano le automobili. Sono entrati in una trattoria buttando giù le vetrate. Hanno arrestato una persona anziana di 70 anni chiamandola vecchia barbona e ubriacona. A tutto questo noi diciamo no. Bisogna ribellarsi, bisogna cominciare a indignarsi, a ricominciare a ripartire da zero, dal basso, con le solidarietà concreta. Se continuiamo a guardarci ognuno ai cazzi nostri, fra poco non ci rimarrà niente, perché se hanno mangiato tutto, compreso il nostro futuro. E come dicevamo, sempre qui da Paola, e ora la voce della stazione dice delle cose che noi non riusciamo a capire, ma ad ogni modo continua il presidio e dobbiamo comunque dire che, a parte, diciamo così, le forze dell'ordine qui presenti che ci osservano, e ci sono molti passeggeri che manifestano la loro solidarietà. E ora ascoltiamo altri interventi. Tutti il diritto democratico di manifestare, a tutti quanti quegli attivisti che in questo momento sono dalle carceri italiane, trattati come se fossero terroristi, trattati come se fossero dei banditi, anche a loro è dedicata questa protesta, anche per loro, oggi in tutta Italia, oggi a Paola, migliaia di persone stanno bloccando la circolazione dei treni, così come stanno bloccando la circolazione delle auto, la Valsusa è dovunque, la Valsusa ha paura non ne ha, la Valsusa ha paura non ne ha. Indiradio finisce qui per questa sera, vi ricordo ancora una volta i nostri orari, e sabato la replica alle ore 20:30, mentre di venerdì potete ascoltarci alle ore 20, e intanto vi ricordiamo che subito dopo di noi andrà in onda un nuovo programma in transizione di fase, ovvero Tortuga. Continuate ad ascoltare Indiradio e salute e felicità a Tortuga.